Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. Quello che faremo stasera, in buona sostanza, un tentativo di rispondere a una domanda: che funzione possono avere i social network nelle mani della pubblica amministrazione per contribuire, diciamo così, a quel disegno che chiamiamo Smart City, di cui noi ci occupiamo qui in trasmissione? Cerchiamo una risposta insieme a Giovanni Arata, che è giornalista e analista indipendente, che collabora però con il Centro Next di Torino, è un consulente della Regione Emilia-Romagna ed è specializzato proprio nello studio dell'impatto dei social media sulle organizzazioni e le nuove forme di collaborazione online. Buonasera Arata. Buonasera a lei e buonasera agli radioascoltatori. Allora, prima diciamo di lanciarci in una qualche tipo di analisi, facciamo il punto della situazione con alcuni dati. In che modo vengono usati oggi, Arata, i social network nella pubblica amministrazione? Che cosa sappiamo in merito? C'è stata qualche ricerca, no? Sì, insieme con il Centro Nexa da un paio di anni portiamo avanti una rilevazione sull'uso dei social da parte delle PA locali, e quello che emerge dai dati relativi a Facebook e Twitter è che c'è un impiego numericamente ancora limitato, per cui si parla di poco più di 2 migliaia di amministrazioni presenti su Facebook e di poco meno di 400 su Twitter. Su oltre 8.000, no? Che sono oltre 8.000 comuni. I comuni, poi sono le province, le regioni, certo. Regioni, quindi parliamo di numeri oggettivamente piccoli, sì. E già nel quadro di questi numeri piccoli un impiego, questa è la prima cifra, che è prevalentemente unidirezionale, quindi una continuazione con altri mezzi dell'ufficio stampa. Quindi di fatto si usa un social network, ma si usa esattamente come si usava il sito fino ad alcuni anni fa. Si pubblicano dei comunicati, si dà visibilità a delle iniziative, però non c'è l'elemento sociale. Sì, l'unidirezionalità significa che le bacheche di Facebook vengono tenute chiuse non solo ai post, ma talvolta ai commenti, o quando ci sono i commenti non si risponde ad essi, o significa su Twitter per esempio che alle mention che arrivano non si risponde, o che non si utilizzano le funzioni di retweet di post terzi, che servirebbero propriamente per alimentare il dialogo con i cittadini. Quindi c'è una domanda alla quale non si risponde. Ecco, tra l'altro questi sono dei potenti boomerang, perché come è anche venuto fuori da altre ricerche, per esempio fu fatta una ricerca su questi sistemi che dovrebbero aiutare i cittadini a prendere i mezzi pubblici con informazioni che vengono date in tempo reale, no? Sulla base del traffico e quant'altro, e si è visto che insomma, se le informazioni che vengono date da questi sistemi, qui siamo nel pieno settore dei servizi, non sono affidabili e veloci, basta, diciamo così, cannare un paio di volte e ci si gioca per sempre o magari per anni la fiducia nello strumento. Quindi mettere a disposizione uno strumento e poi funziona poco, male o addirittura poi viene lasciato a se stesso è veramente anche abbastanza deleterio, no? Ci si fa male da soli. I dati confermano questa tendenza. Le rilevazioni, tanto su Twitter PA che su Facebook PA, che sono i due rami della ricerca, mostrano come oltre il 50% degli account venga aperto e poi magari dopo pochi mesi lasciato a se stesso. Quindi nelle 30 giorni prima delle rilevazioni nessuno ha più pubblicato nulla o ha risposto a nulla. È evidente che si è aperto per effetto wow, per far vedere che si era con l'amministrazione sul pezzo, ma dopo non si è dato seguito a questa cosa. Questo è un boomerang incredibile. In questi casi viene da dire sarebbe meglio non essere lasciar stare proprio media. certo. Invece qualche caso di eccellenza poi in questa media abbastanza bassa, però c'è. Sicuramente ci sono buoni casi, ci sono a tutti i livelli amministrativi, dai più piccoli comuni, ho citato spesso il caso di Capolivera, l'Isola d'Elba, piuttosto che San Giovanni Teatino o Ceglieme Sapica, ma anche e ancora a maggior ragione tra le amministrazioni più grandi, medie e grandi, quindi dalle capoluoghi come Torino, che è capofila su quasi tutte le dimensioni, a Milano, a Bologna, Firenze, ma anche... Ecco, che cosa fanno questi comuni virtuosi? Questi comuni virtuosi sono rispondono alle domande, per esempio, no? In grado di rispondere alle domande, sono in grado di intercettare, prendersi carico delle richieste informative o di rimando di servizio rispetto ad altri uffici dell'amministrazione, farsi carico di queste richieste, certo, e rispondere in maniera puntuale, piuttosto che sono capaci di impiegare in maniera evoluta le funzionalità solo digital che ci sono online. Penso a Twitter e alla possibilità di fare live tweeting e quindi di condividere per esempio un consiglio comunale con tutti coloro che sono interessati attraverso un hashtag in 140 caratteri. Certo, certo. Tra l'altro un'altra cosa che le amministrazioni, mi sembra di capire, non facciano è raccogliere informazioni in modo sistematico da queste fonti, no? Perché poi tutti questi messaggi che arrivano sono degli input ben precisi, appunto, che a quali bisogna rispondere, ma che forse possono anche risultare un serbatoio di informazioni dirette e indirette. Alcuni dei casi di eccellenza, diciamo, si sono verificati in situazioni di emergenza. È precisamente così. Già durante l'alluvione che riguardò prima la Liguria e poi il Piemonte nel 2012 e poi sempre nel 2012 durante il terremoto in Emilia, abbiamo avuto casi in cui le amministrazioni, le antenne social delle amministrazioni si sono trasformate in piattaforme di servizio, quindi non più unidirezionali ma capaci di intercettare i tweet o le segnalazioni dei cittadini, verificarle e rimandarle a un pubblico più ampio in tempo reale. Era un tipo di funzionalità che era decisiva. Si è distinto in questo il comune di Bologna, per esempio, durante il terremoto, ma accanto a questo ci sono state amministrazioni di livello superiore, penso per esempio alla provincia di Reggio Emilia, ma al contrario anche di comuni più piccoli. E ancora, sempre durante il caso dell'Emilia, che è stato un caso di studio importante, ci sono amministrazioni che si sono affacciate ai social propriamente dopo, perché si sono rese conto che nelle emergenze non potevano non avere questo tipo. Certo, è un modo di raccogliere, molto flessibile, di raccogliere anche solo informazioni. Esatto. Ecco, quindi in ultima analisi, come vede lei il ruolo del social network rispetto a questa partita della Smart City? A cosa servono e a cosa non servono? I social media non sono in sé uno strumento di realizzazione della Smart City, non servono per erogare servizi direttamente, anche perché sarebbero escludenti rispetto certo, a diverse fasce di popolazione. Infatti. Per converso possono svolgere un ruolo fondamentale nella ricostruzione o nella costruzione o nel consolidamento del rapporto fiduciario con i cittadini, quindi in sé per sé non fanno la Smart City, ma possono diventare un mattone. Possono ben disporre i cittadini verso la Smart City. Grazie Giovanni Arata. Grazie a voi. Anche per questa sera abbiamo concluso, appuntamento a domani.